calore 10, CQ 10, CQ 10, CQ calore 10, c'è qualcuno in ascolto? Attento Gianni, doppio rutto, ci sei? Attento Gianni, doppio room, ci sei? Che risponda dove vuoi risponderti? Così forte sono perché mi sono messo sotto accetto stamattina, per quello che sono così forte. Per cosa già? Non ho capito. Avevo il volume troppo basso. Sì, se te l'ho detto che c'era un abrico. Te l'ho detto, ci sono un abrico. Ci sono la secca intera anche da 2 metri. Per cui, che cosa, mi sembra che costano 70, 80 centesimi o una secca, una cosa del genere. Tanto meglio, per cui sono già pronti, perché così vanno bene. Ho capito già. Vabbè, pazienza, fa niente, interessante averli trovati. Problema, figurati. Se te lo sto dicendo, una secca costeranno se no 70 centesimi, per cui non è questa grande spesa. Se facevi il buco preciso come l'RG58 andava bene lo stesso, aria non passa, bastava farlo passare giusto con la punta da 7 mm e il cavo passare giusto e aria non può passare. Certo, fuori c'è freddo, sì. Dentro casa ci sta bene, certo. E l'hanno inventato per quello, mi riscaldamento è stato inventato per quel motivo, per stare bene dentro casa. Sì. C'erano prima, altri tempi già. Altri tempi, allora si usava la legna, ma io mi ricordo a casa di mamma quando ero giovanotto c'era la cucina economica, così si chiamava, quella cucina con i cerchietti sopra, no, sul piano, cerchio più grande, più piccolo, eccetera. E dunque poteva mettere la pentola sopra, attizzava il fuoco, apriva il portello, mettevi legna e dunque scaldava anche tutto l'ambiente e anche molto. Quei cerchietti diventavano rossi, tutto rossi, come quando il fabbro scalda il ferro per batterlo sull'incudine. rete, infatti era così, c'era il cassettino a accendere, il forno, lo scaldavirbande, tutte queste cose qua, ma certo, erano belle comunque quelle cucine. E c'è qualcuno che ce l'ha ancora, come uno dei miei fratelli ce l'ha, se accende quella e dice che scalda, poi dice mi piace vedere la fiamma della legna, perché è come avere il caminetto praticamente. Grande versione costa, perché la cosa costa molto, quella che ho comprato io costava 3.000 euro quasi, se mancava qualcosina a 3.000 euro, però come c'era un amico lì, mi ha detto vieni fra 15 giorni a comprarla che c'è un 20% di sconto. Sono andato dopo 15 giorni, anche di meno, mi aveva chiamato lui e avevo risparmiato la roba di 400-500 euro, avevo risparmiato, tutto per effetto dello sconto che c'era stato. L'avevo comprato lì la cosa, un città mercato dove c'era prima, no? il bricco di città mercato, quello che c'era giù. Lì l'avevo comprato, costava 3.000 euro quasi, e avevo risparmiato roba di 500 euro circa. Beh, ho chiamato il tecnico per l'installazione, intanto ci è voluto l'idraulico per poter fare tutto l'impianto, no? L'impianto nel senso che bisognava attaccarlo all'impianto di casa, no? Cioè io l'impianto ce l'ho nel terrazzino, nel poggiolo, no? Ho dovuto chiamare il tecnico per fare l'impianto per poterlo collegare ai tubi esistenti del riscaldamento, capito? Sono stati utilizzati quelli, no? C'è una specie di autoclave, c'è, che è una pompa praticamente, con un autoclave, una specie di autoclave. Questa pompa entra in funzione, attira l'acqua, la particolare lungo tutta la tubazione che porta ai radiatori, eccetera. E così c'è un continuo scambio di acqua che circola all'interno di questo impianto, per cui il radiatore rimane sempre bello caldo, no? E allora manda calore. Con bypass fai lo scambio, con bypass lo puoi utilizzare, certo. Lo scaldabagno no, lo scaldabagno no, perché in estate come fai? In estate non è che devo accendere la stufa per avere lo scaldabagno sempre caldo, no, quello è elettrico. Sistema. Prima lo compravo e me lo portavo al magazzino, me lo portavo e tutti i giorni, siccome io salvo tutti i giorni, mi portavo giù un sacchetto. E invece adesso no, non ho che fare così, ne compro di meno, mi riempio un po' il bagagliaio della macchina e tutti i giorni mi porto dentro un sacchetto. Ecco come faccio. E così non faccio il doppio lavoro. E beh certo, nel bagagliaio l'ho chiuso, non si vede niente. Quella specie di piano che c'è dietro, nell'1-8 di dietro, ce ne stanno anche 12, però rimane un po' sollevato il piano, come lo vuoi chiamare, quella specie di cartone che c'è rivestito, perché quello è cartone, non è altro che quello che c'è dietro nello sfondatore, no, dietro. E dunque, 10 alla volta, e con 10, guarda, mi durano per 10 giorni praticamente, anche di più alle volte, senza anche di più di quei 10 giorni, anche 12-13 giorni mi possono durare. E dopodiché quando vedo che sta diminuendo lo ricomprano, e dunque ce l'ho sempre a portata di mano. E così non faccio nemmeno molta fatica, lo faccio perché prima invece cosa facevo? Andavo, lo compravo, lo portavo nel magazzino, lo scaricavo, poi tutti i giorni dovevo prendermi un sacchetto. succede, ma succede per dire, invece così faccio questo modo. Anche che prendere tanti tratti, ne prendo solamente massimo 10, quelli che ci stanno, e tutti i giorni ne apro la macchina e ne prendo un sacchetto. Thank you. figurati, quello no, ci ho creduto. E capita, no, la gente non sa, al massimo te lo porta dentro casa e basta, ma dentro casa, se poi tu hai 10 piani, e ti arrangi tu da solo. Ma io mi ricordo, avevo comprato un frigorifero, anni fa, no, avevo comprato un frigorifero, quello industriale, quello americano, no, quello grande, con gli sportelloni. E quando me l'hanno portato me l'hanno lasciato nel salone, all'ingresso praticamente, perché io entro le sale per il salone. E ma io lo devo portare giù nel seminterrato, cioè in tavernetta. Ah no, no, dice, noi lo lasciamo qua. E mi sono dovuto arrangiare io e Antonello, ho chiamato Antonello, te lo conosci, e mi ha aiutato lui a portarlo giù. No, no, no, non te lo scaricano. Anche perché facevano difficoltà, ma è troppo grande, non ci passa, già ci passa che ho preso le misure, infatti ci è passato benissimo. Loro dicevano che non ci passava nella scala, perché secondo loro la scala era troppo stretta e non poteva scendere in questo frigorifero grandissimo. E invece è passato benissimo. Io e Antonello, naturalmente, un po' di fatica si fa, è ovvio, però da tutto non si può avere. Facevo io, quando facevo i lavori, che portavo e tutti i lavori, e non erano sacco di pelle, certo, quando tu cominciavi a portare su o delle porte o delle finestre o dei mobili, e capita, pesavano. Ma io mi ricordo, avevo fatto un lavoro a una professoressa che abita a Grattacielo, lì dove c'è l'Osa, in piazza Zuni, no? Lì, e si entrava dal portone, dove c'è l'edicola a fianco, si entrava lì al 12° piano, si può immaginare. Beh, quasi tutti i pezzi, siccome era tutto uno studio intero che avevo fatto, tutto bagagliamento, una stanza grande, mobili tutto attorno, anche con pareti, rivestiti, eccetera, eccetera, con pannelli di moquette, eccetera, insomma un lavoro abbastanza lungo. Al 12° piano, a piedi, nelle scale, come facevi a salire pezzi lunghi 2,50 m, anche 3 metri, eppure le portate su, sì, al 12° piano, al grattacielo di stanza, che puoi immaginare. E chi te li portava su se no? Non è che scendevano loro, poi tra l'altro era una donna anziana, una donna vecchia, questa si può dire, una professoressa. Per dirti, no, tutti i lavori che ho fatto me li sono sempre caricati io sulle spalle, me li ho portati. Capita, anche a Porto Torres, al terzo piano, una volta 10 porte, le ho portate su 10 porte e ho portato giù le 10 porte vecchie che c'erano. Poi le ho fatte a pezzi, che sono arrivate in bottega, queste delle porte vecchie. Le ho dovute tagliare tutte a pezzi, non è che mettevamo 10 porte vecchie in bottega, no. Tutti a pezzettini le ho dovuti tagliare. E poi le ho dati a Davide per la stufa. Davide si prendeva tutta la legna che facevo io, se la portava via lui in campagna per il caminetto. E così lo stesso discorso voleva anche quando andavo a comprare i tavoloni. Capito, andavo con motocarro a Porto Torres, mi ricaricavo 30-35 tavoloni di pino di Svezia o di altri tipi di legno, oppure addirittura in inocco, tavole pesantissime, ma pesanti, e poi non me li caricavo da solo. Beh, li caricavo, quando fuori entravano in falegnameria, anche perché erano tavole che potevano essere anche lunghe 5 metri, 5-20 per detto tempo, le tavole di Pinesvecchia, perché le tavole di Pinesvecchia hanno misure varie, no? Partono da, di sotto, partono da 2,70 e vanno avanti all'incirca di 30 cm in 30 cm. E possono arrivare anche a 5 metri, 5,20 metri. Eppure io li caricavo sul motocarro tra la sponda, la costruita porta del motocarro, e poi c'era una sbarra molto robusta di legno sulle sponde regolata, e mettevo i tavoloni tra la sbarra che era appoggiata alla cabina e la sbarra sulle sponde del motocarro. Mettevo il cartello dei carichi dei poggenti, e dunque ben legata come si deve, e lo facciamo tutto da solo. Chi è che mi ha mai aiutato a me? Io faccio sempre tutto da solo. Sì, quando era una moto di lusso, guarda che ce l'ho tenuta ormai 35 anni quella moto, per cui andava molto ma molto bene, aveva un motore di lusso, arrivava a 70 km orari, arrivava, e scendendo ad esempio sulla Budi o scendendo via la Fototorre, sino quando scendevo a casa, arrivava a 70 km orari, arrivava come velocità, ma a me non mi interessava la velocità, per dire, no? Per dirti, sai cosa vuol dire mettere su 30 tavoloni lunghi 6 metri? Vuol dire mettere 6-7 quintali di peso sopra lì, non erano 2 kg, no? Dunque volevano scaricarti già. La moto lo potevo caricare, se ricordo bene, 4 quintali appena, ma io ne mettevo anche 6, perché un metro cubo di Pinesvecchia pesa 6 quintali, un metro cubo, indipendentemente dalla lunghezza delle tavole, no? Un metro cubo, non ha importanza la lunghezza, perché siccome vanno misurate le tavole, possono essere, se sono tutte lunghe, possono essere anche 28, 27, 25 tavole, siccome sono misure varie, allora passavano le 30 tavole, di solito erano tra le 30 e le 35 tavole, e pesano 6 quintali, un metro cubo di 6 quintali e mezzo, anzi per l'esattezza. Comunque, cosa ha detto? Da molto non esiste più, ma per quello la vita, quelli che la gestivano, non erano loro, non erano i proprietari erano di fuori, di continente, ne avevano anche una succursale a Oristano, ne avevano qui in Sardegna, per cui era, adesso non mi ricordo di quale città fosse il vero proprietario, però c'era il gestore che c'era tanti anni, un certo Corda, che era lui il gestore, poi c'erano gli uomini, no? i magazzinieri c'erano, e quando caricavo tavole di rocco, guarda che potevano essere anche 70 cm, tu immagini una tavola grossa a 5-6 cm di spessore, è lunga 4 metri, per dire, è larga 70 cm, sai cosa vuol dire come peso? Tu non hai idea cosa vuol dire come peso, e il rocco è il legno che pesa veramente, non lo scherzo. Sì, quando erano liberi potevano, bastava lasciargli i soldi da birra come facevo sempre io, e dunque, ma devi dare i soldi da birra per il semplice fatto, siccome i legnami non si potevano scegliere, non era tu, venivi per dire le tavole e prendevi sempre da sopra, prendivi, no, ma io voglio quella che c'è sotto, no, tu li prendi da sopra, allora io mi avevo fatto un balonia a tutti i lavoratori che c'erano lì, le lasciavo magari 5 euro, si compravano la birra, si compravano, e io sceglievo dalla catasta, sceglievo tutte le tavole che mi piaceva, capito? Allora facevo scegliendo e sistemando di nuovo, non è che gli giravi tu la catasta e poi loro mettevano a posto, no, e così non era nemmeno giusto fare così, non era nemmeno educato. Altre catacce, magari, non so, che so io, scendendo a legname, un'ora ci stavo magari, un'ora e mezzo, però prendevo il legno che volevo io. E magari per prendere anche su io 30 tavoli, io ne avevo girato 70, 100 e chissà, bisognava vedere cosa trovavo, perché io mi prendevo le tavole, intanto con la qualità della fibra del legno, poi mi prendevo anche le misure che mi convenivano a me, perché se io dovevo tagliare, tanto per fare un esempio, ho montanti da 2,20 m, allora prendevo le tavole da 4,40, 4,30, 4,20, capito? In modo che tagliavo metà e non avevo consumo. Se te ne avevo loro, ma si usavo le tavole da 4,70, 4,80 e 50 cm ti rimanevano come persone, cosa me ne facevo? A poco? No, ma addirittura avevo io le persone che quando vedevano le tavole belle, io li telefonavo prima, guarda che mi servono un metro, 2 metri, 3 metri cubi di legno, come aspetta, dice, la prossima settimana che arriva il carico nuovo, così. E allora cosa facevano? Aprivano il pacco, no, perché il pacco di solito sono sempre 7-8 metri cubi, una cosa del genere, e loro il pacco lo aprono e cominciano a vendere. Se vedevano una tavola bella, la prendevano e me la mettevano da parte, perché appena mi vedevano, di che ti ho messo da parte le tavole come si deve, hai capito? Bisognava saperci fare con questa gente, se no ti trattavano come uno qualunque, allora a quel punto non ti facevano scegliere, dice no, prendi, lascia stare, no, vendi davanti a voi, ma a me quando non mi serve, non ci interessa, noi vendiamo in questo modo, capito già? Bisognava essere furbi e intelligenti. Bagagli tutto sommato, perché io gli lasciavo i soldi della birra tutte le volte che andavo, capito? Anzi, qualche volta gli lasciavo anche che andavo solo a vedere, a chiedere i prezzi, eccetera, e a visionare i legnami, perché magari dovevo fare un lavoro e volevo sapere quale materiale avrei potuto utilizzare per fare il determinato lavoro. Allora facevo la scappatina, che ci facevo, guardavo quello che c'era e poi quando me ne andavo, non me la rinunciavo. E gli lasciavo magari 5 euro o 5.000 lire quando c'era la lira. E loro erano contenti, ma contenti, però si trattavano, in pianta di mano si trattavano. Che poi erano diventati talmente amici che non avevano certo la faccia di non chiedermi, e mi richiedevano e basta, anche se per caso io facevo un distratto, per dire, no, che poi non l'ho mai fatto, gli lasciavo sempre, tanto mi convenivo a me fare così, perché tanto io ce l'avrei buttato poi i materiali già, i materiali di scarto, perché io ho sempre lavorato in una maniera di qualità, non di sostenibilità, di quantità. Perché? Perché io volevo il legno come si deve. Io un giorno al direttore, quando mi hanno detto non si sceglie più il legno, mi hanno detto un certo Renzo che lavorava lì, un capo matro che era il lecchino della ditta, era quello. Ha detto, non è davvero, aspetta bene, cioè, come dici tu adesso. Sono andato in ufficio, si ricorda, io sono venuto qua per comprare il legno con i soldi, io compro con i soldi, qua io vengo a lasciare i soldi e voi mi dovete dare il materiale. Cosa vuol dire? Vuol dire, signor Renzo mi ha detto che il legno non lo posso scegliere. Ha detto, lei a me mi fa scegliere il legno, mi dice quanto costa e io scelgo. Prende il legno di prima, di seconda o di terza categoria. Per cui mi ha preso sotto braccio, sai dove mi ha portato? Scendendo il legno di Azzurri, all'angolo di via 4 novembre, c'è un bar, non mi ricordo come si chiama quel bar, mi ha portato lì. Ha detto, venga signor Senta, venga con me. Io almeno capisco, perché chi dice ho fatto questo lavoro e so cosa mi state chiedendo. Però se dovesse fare tutti quanti insieme, quando siamo rientrati, allora che sia solo ed esclusivamente per lui. Quando viene lui può scegliere quello che vuole. E io dal giorno sceglievo tutto il materiale che volevo. E c'era quello, non lo poteva sopportare, siccome era un po' imbecilloso questo signor Renzo, che c'era. E io lo facevo apposta, se andavamo a vedere 10 tavole ne giravo 50, proprio per farlo crepare a lui. E lo guardavo tutti i legni che volevo io, capito? Magari ne giravo una, me la mettevo da parte, poi magari giravo altro e mi vedevo che era una ancora più bella, allora mi mettevo quella e mi prendevo un'altra che avevo ritrovato. gli facevo e lui non lo sopportava, però non aveva l'ordine di farmi lasciarmi fare quello che volevo. No, io non scherzavo, ho detto, ecco, a me non me ne frega niente quanto costa il materiale qua, lei me lo faccia pagare, per secondo lei, ma se noi dice, lui mi ha detto, se noi facciamo così, tutti quanti sceglierebbero il legno migliore, e infatti aveva ragione, e noi ci rimane tutto lo scarto, che poi, fatto guardi, sia la prova contraria, per quanto mi risulta, a voi non ve ne avanza mai di legno, il che significa che vendete tutto, per cui, non questo discorso che mi sta facendo non è proprio per niente valido. Poi però indipendentemente da quello a me non mi frega niente. Lei stabilisce i prezzi, legno di prima, legno di seconda e legno di terza. Io voglio sempre legno di prima. Quando voglio legno di seconda lo chiedo di seconda. Però lei stabilisca il prezzo e io voglio quello. Non me lo frega niente se lei lo vende 600.000 lire al metro cubo, io lo voglio pagare di più, basta che mi dia il legno come si deve. Perché a me mi chiedono il lavoro come si deve. Per fare il lavoro come si deve ci vuole anzitutto il materiale come si deve. Lo so, se non fa così, lei mi ordina un lavoro e poi il legno lo scelgo io e poi glielo consegno lì a vedere se è contento con il legno che dicevo. No, così non va bene. E come non va bene per lei, non va bene nemmeno per gli altri. Siccome io col cliente ci mangio, e allora sono interessato a trattarli bene. Deve. E io scegliamo i materiali come si deve, perché è giusto che sia così. Tu non puoi prendere il legno qualsiasi, vai alla cassata e prendi la tavola che ti capita fra le mani così. No, la tavola la devi innanzitutto conoscere. Questo dipende anche dalla bravura dell'operaio che compra, conosce il legno. Se uno il legno non lo conosce, sono problemi tuoi, non è che. No, perché il legno non è che lo fai, tu prendi la tavola, tagli e fai, no! La tavola devi conoscere la fibra, devi conoscere i nodi, sono nodi nerati, sono nodi sciolti. Se sono nodi sciolti, a un certo momento prima o poi si staccano, perché si staccano, c'è da fare. Perché attorno al nodo c'è la resina, il legno si restringe e il nodo salta. E allora queste cose bisognava tenere in considerazione. Se la fibra, la fibra che il legno guardi, che so io, ha una fibra un pochino strana, quando tagli il montante ti si piega, anche se tu lo piali, dopo un po' di tempo ti si piega, invece se tu hai scelto il legno con la fibra ottima, quella come deve essere, a parte bisogna anche saperlo tagliare, no? In una certa maniera, perché se lo tagli sbagli, siamo sempre da capo. Ma per dirti, tutte queste cose un operaio deve sapere. E siccome io ho imparato in un'azienda che era il più bravo foreggiato della Sardegna, è benissimo come si tratta il legno, a differenza di tanti altri operai che anche possono essere bravi nella costruzione, però non capiscono queste cose, e se non capiscono queste cose ti manca una parte del mestiere, io la penso così. Come si chiamo lui, così, e tu è come che ci siete ritrovati dentro una stanza vuota, dove appunto ogni suono lo rimbomba, lo rimbomba a sé. Va meglio, sicuramente così va meglio. Così i mobiletti mi sembra che sono, no, c'è Tanganica a risellare però. Che significa che è il miglior materiale per fare la struttura di un mobile, anche di mobili grandi come armadi da camaretto, armadi a muro, è il miglior materiale che uno possa utilizzare. Poi ce ne sono tanti, ci sono i multistrati, ci sono i pannelli tabulati, ci sono sia il strutturale, c'è l'MDF, c'è lo OSQ, insomma ci sono tanti tipi di materiali. Il migliore in assoluto è la noce, i pannelli di stellare. Il tuo è, siccome poi è stato colorato con le nubi, allora per avere un colore come si deve, ho preso noce Tanganica, che è già un materiale pregiato, è una noce, un tipo dei tanti tipi di noce che esistono. Ma l'istellare, cosa significa l'istellare? Che c'è all'interno una fitta composta in aderenza l'uno all'altro di tanti listoni tutti insieme, cose praticamente fuori rivestito sia da una parte che dall'altra, con dei fogli tipo compensato, però lo strato finale, quello a vista, quello lì è noce Tanganica, capito? E dunque è un legno pregiato, che allo stesso tempo un pannello così è indeformabile in tutti i sensi, sia al calore, al freddo, a qualsiasi temperatura, a tutto insomma, ecco, ed è perfetto. Se uno compra il strutturale buono, perché anche lì c'è la categoria, certo non il strutturale di bricco, me l'ho visto il clipo, quello è paglia, non è strutturale, ma se dovessimo, per dire, non so, utilizzare il strutturale ad alta densità, cosa significa? Che è praticamente un materiale molto prestato, allo stesso tempo di materiale buono, non di paglia, di rifiuti, proprio di scarti, di legname, eccetera. Un trucciolo di legno buono, in che senso buono? Non nel senso che sia legno pregiato, che sia noce, o palissardo, o mogano, no. Buono nel senso che debba essere un legno bianco composto di prima scelta, allora il trucciolare è buono. Però ecco, c'è questo da dire, che il trucciolare, per quanto buono possa essere, se uno non lo lavora nei modi dovuti, è sempre un trucciolare. Tu combinerai, ma cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, ad esempio, i collegamenti fra ripiano, cappelletto e fianchi, se tu lo avvitti così, non può tenere nella maniera più assoluta. Mi spiego? Allora che cosa succede? Devi fare una particolare lavorazione nei fianchi oppure nei cappelletti, devi fare. Il che significa fare un incastro tutto lungo per tutta la lunghezza del fianco e inserisci una bacchetta di legno dentro incollata come si deve, per una profondità che so io anche di 3 cm in profondità, in modo che poi quando fai il collegamento tu metti le viti e avvita sul legno, avvita anziché sul trucciolare, perché il trucciolare, per quanto compatto possa essere, c'è sempre la possibilità di sgranarsi, perché è sempre un trucciolo. Mi sono chiarato? Ecco, esempio i mobili che sono nell'ultimo, che sono tutti quanti fatti in triturale sicuramente, o perlomeno sono fatti con un tamburato in vespaio. Cos'è un tamburato in vespaio? Lungo il perimetro del fianco, oppure lungo il perimetro di uno sportello o di un piano, c'è un telaietto a circa 3 cm di larghezza, questo di legno, tutto attorno. Poi all'interno c'è una fisarmonica di cartone, cartone, che praticamente forma il vestito completato da una parte e dall'altra, e questo cartone si incolla al completato, si incolla, e sembra pieno. Infatti, perché sono leggerissimi i mobili di negozio? Che a volte, se tu non sei attento e compri un armadio che ha gli sportelli più pesanti di tutto il resto dell'armadio, se si rovescia l'armadio addosso quando apri tutti gli sportelli. Perché? Perché il contropeso dietro non c'è, e allora gli sportelli, essendo più pesanti, si può cadere l'armadio addosso. Devi aprire gli sportelli di uno per volta, massimo due, perché se no è pericoloso. Mentre invece, se la struttura è pesante, che è quello che si deve fare per fare un buon lavoro, un armadio come si deve, veramente, deve fare innanzitutto una struttura pesante, soprattutto la base, e poi lo schienale, non mettere il solito compensato da 4 mm come schienale, oppure lo schienale di masonite, no? Lo schienale minimo devi mettere almeno da 8-10 mm in modo che intanto perché si tiene tutta la braccia del collo si tiene la sparatura della e qualcuno lo sta parlando a PMR già. Stavo dicendo, se lo schienale non è rigido, l'armadio, per quanto sia bloccato dietro, si muove sempre. Il peso stesso degli sportelli incomincia dopo un po' di tempo, vedi lo sportello più alto, lo sportello più basso, perché si deforma bene. Se noi andiamo da Conforama o da Mondo Convenienza a comprare mobili, c'è lo schienale dietro, tu mi dai, ma costano poco i mobili, certo che costano poco, perché se no i mobili non possono costare così poco, se non sono fatti con un materiale da tipo. Hanno lo schienale dietro di cartone, che è proprio nello senso della parola, è un cartone. Quando è buono, lo schienale ricomincia a essere di masonite, però è sempre uno schifo. Lo schienale vuole il minimo, dipende naturalmente anche dalla grandezza del mobile. Se è un armadio grande, ad esempio, uno schienale da 1 cm va più che bene. Se è un armadietto, un triestino, tanto per fare un esempio, un triestino significa un armadio a tre ante sopra e tre ante sotto, può andare bene anche da 8 mm, ma non mai da 4 mm, perché sarebbe una vergogna. Prima di tutto perché si gonfia lo schienale, e gonfiandosi tante volte, siccome oggi cosa fanno, anziché mettere una battuta a vitazzo tutto attorno, allora fanno un incastro nei fianchi, lo infilano l'incastro dentro, questo compensato si gonfia, gonfiandosi cosa fa? Gonfiandosi verso dentro o verso esterno e esce fuori dall'incastri. Esce fuori, perché esce fuori dall'incastri? Perché già i fianchi sono appena di 2 cm, 2,5 cm, e dunque non possono fare un incastro molto profondo. E allora a quel punto lì l'armadio si può immaginare cosa può fare, non fa altro che l'effetto culla che si muove contro suo. Del cartone delle scarpe, ma è sempre un cartone comunque. Anche un esempio, i cassetti, ecco, parliamo di cassetti. Quando fanno i cassetti, cosa fanno? Tu vedi la mostra di davanti e davanti dal cassetto, alto, per dire, non so, magari 15-20 cm può essere, a seconda del tipo di mobile, no? Se un comò può essere anche 22 cm, può essere, dipende dal mobile. Ma prendiamo il mobile di cucina, tanto per fare l'esempio, vedi i cassetti alti davanti. Poi guarda, le testate sarebbero i fianchi del cassetto, si chiamano così in gergo tecnico, le testate, davanti alla mostra, di fianchi le testate, e così le vedi in parte a metà. Questo cosa significa? Significa che tu, dentro quel cassetto, potrai metterci la metà delle cose. Perché? Perché non c'è la testa. Non ti sembra che sia così? Della cucina si arrivi nuovamente gli accessori dentro. non va bene così. E allora lasciare non si dà, perché pure così, se vuoi fare lo scolapiatto, come se non devi fare, per lasciare non si dà. E così almeno non si arrugginisce, mai. Per cui è così che devi trattare. Perché il cliente era sempre quello, poi naturalmente con il cliente bisognava parlarci, discutere, e c'era quello che capiva, poi c'era quello che non capiva, e allora pazienza, e la porta aperta, ciao, nessuno ti trattiene. Però di solito quelli che vanno dagli artigiani, se l'artigiano è onesto, gli fa capire certe cose, è tranquillo che il cliente non è stupido, il cliente ci ragiona, altro che se ci ragiona. Io mi ricordo, ragazzi, io avevo fatto anche mobili da camerette, per dire, non so, da ragazze, eccetera, mobili a muro con tutta una parete attrezzata con i letti inseriti, eccetera, no? Anche a due posti. E le facevo pagare intorno alle 4.000 euro un mobile attrezzato, una parete praticamente con i lettini, con i vari piani per libreria, eccetera, eccetera, con tutto il sofacco, tutto quello che gli voleva. Sono andato a comprare una camera delle stesse dimensioni, più o meno, magari una parava 1.200-1.300 euro la parava. E poi venivano a me a riparare, mi si è andato al fratello, poi ci mette. Ti sei andato lo sportello, e allora, e cosa vuoi fare? È vero che tu solare, come aprivano lo sportello, magari se lo dimenticavano anche aperto, passavano di fianco, lo toccavano appena, essendo di trucciolare questo sportello, si sclamava e la cerniera a scatto si staccava. E adesso come facciamo? Adesso mi ottocchiamo il buco del mobile, poi dentro lo vedrai sempre bucato, per poterlo rimettere a posto momentaneamente, non per sempre, ma momentaneamente lo metti a posto, perché è dato che succederà la stessa cosa. E la gente che aveva ragione, questa è una porcheria. Naturalmente c'è stata anche gente che mi ha detto, vediamo sai cos'è, che io vado per dire la Cofonama, quanto mi dura questa casa? È un anno, non me la sarà niente, intanto mi la pago 600-700 euro, la pago una camera intera, dimmi se si può pagare una camera intera 700 euro, quello per comprare 700 euro, più che mondetta. E poi tanto dice me ne danno 20 euro al mese, me li pago 20 euro al mese, e poi magari se un anno, un anno, vado me la ricompro nuova. Hai capito? C'è la gente che ragionava così anche già. Deve fare solo esclusivamente quando dovrebbe divertirlo lo sportello. Se lo sportello non era divertito, ad esempio, se era una cazzo, tanto per fare l'esempio, non è che potevi fare una cosa del genere, perché per fare una cazzo dovevi usare non un strucciolare, ma bensì almeno MDF, o perlomeno dovevi usare multistrati, o perlomeno dovevi usare il lisellare, che era ancora meglio, era il massimo, lisellare, perché quando avvisi avvisi sul meglio. Quello che ti stavo dicendo poco fa a te, tutto quel legno fitto, accostato l'uno all'altro, incombato tutto insieme e poi il vestito da una parte all'altra. Ecco perché ti stavo dicendo, i mobili migliori sono quelli, perché con quelli i problemi di collegamento non esistono, perché dove metti la biccia prende sempre legno, in qualsiasi punto. Prendiamo un esempio, ti ricordi una volta che sono venuto alla te che mi ha detto il ripiano della cameretta dei bambini si erano caduti, eccetera, eccetera. Quando ti ho messo la pacchetta per il ripiano, più ne è caduto con il ripiano. Nella cameretta avete avuto problemi di sportelli, di cerniere e con le varie, mi ricordo, perché ero venuto io a sistemarli. Però si sa, era la camera costruita così e c'era poco da fare, perché la riparavi per un certo periodo di tempo, ma dopo ritornavi sempre a capo, a abbastanza frustrazione che ti hai già trovato prima, ma è normale, no? Lo sappiamo che era così. Certo. Io, per dire, io a casa ho un armadio che solo per fare con l'armadio, l'armadio a camera ci vogliono 6.000 euro, solo per l'armadio. Figurati un po', c'è una camera, la metto completa, può costare 700-800 euro come quelle che vendono a Conforama. Ma secondo te solo compresi una cameretta 700 euro? Thank you. sì, ho capito di che stai parlando, sì, sì. Certo. Sì, sì, quello che c'è là dietro lo stabilimento della Santa Regna. Lì, quella falegnameria grande che c'era lì. Certo. Ma prendissimo come sono le cose. Poi per quanto riguarda il fatto degli operai, degli artigiani, è chiaro che devi trovare anche la persona seria. Se trovi gente come c'era una volta la buona anima di un certo Mario Pineda, per carità, si prendeva i soldi e i mobili e i lavori non li vedevi mai. Per dire, dunque lo abbiamo conosciuto tutti a Sassari, ma è morto da tantissimi anni ormai, poveraccio anche lui. Per cui non le conveniva. È chiaro che lui ti dice, ma no, questa qui è la sua produzione. In realtà di sua produzione questo non si è preso da niente. Lì al massimo loro si limitano a fare qualcosina, così, ma cose di poco conto. Ma se deve fare una camera intera, no, o una cucina intera, stai tranquillo che arrivano tutti da fuori, io già. Quello sì, però sono sempre costruiti da fuori, stai tranquillo già, che sono sempre costruiti da fuori, dunque con un risparmio, per mobili buoni si intende, quando uno va dal falegname, trova una persona seria e fa lui i mobili buoni, che ti danno la vista, che non si rompe mai, sai cosa vuol dire mai? Intanto non si deve inventare mai una vite negli sportivi, non si deve mai rovinare una maniglietta, perché hai messo una maniglietta come si deve, non di manierino, e tutte queste cose, non si deve scortare la vernice quando l'hai verniciato, perché hai usato prodotti buoni, non hai usato mondezza, se uno comincia a vederlo di presenza, caspita che bello, perché in effetti il negozio bisogna riconoscerlo, gli stili dei mobili sono tutti belli, ma perché sono tutti belli? Tanto perché sono progettati dagli architetti, eccetera, no? E dunque l'architetto che fa un bel disegno, l'operaio lo mette in opera, lo mette e tu lo vedi, però poi lo vedi apparentemente, basta che mette nella carta un rivestito di carta e a te ti sembra la carta, e lui te lo vende per la carta, hai capito com'è? L'ho pregiato, caspita, questo qui è il palissandro, e lui ti ha colorato il palissandro, e lui il palissandro non l'ha mai visto, hai capito come funziona? Il commercio è così, il commerciante, io l'ho sempre detto, per me il commerciante è il ladro, nel vero senso della parola, perché è così, già. Se ti piace il legno, ci sono anche il legno comunque, non è che non ci sono sì, però tiene presente che la cassa, i poteri possono essere il legno, ma la cassa ricordati che è sempre intrusionale, nobilitato ma intrusionale, sempre, poi può essere colorato, può essere tipo noce, può essere tipo legno, può essere tipo bianco, che te lo fanno passare per la cassa, in realtà è melaminico, un materiale, un rivestimento, una cassa praticamente, e te lo fanno passare per queste cose qua. Però stai tranquillo che di legno, di cassa, io parlo di cassa, se tu vuoi un mobile, lo devi chiedere su richiesta a un artigiano per farti la cassa in legno. Diversamente stai tranquillo che non troverai mai in nessun negozio una cassa in legno. Se c'è un modo perché è stato costruito così, però se è un legno pregiato, se è un mobile pregiato, a meno che non sia un mobile rustico, se è un mobile rustico non ci può anche stare, più di uno, più di dieci per dire, ma se è un legno, se è una camera come si deve, non devi fargli vedere il nodo, non lo devi scartare, ecco quello è il discorso, a meno che tu non hai fatto un mobile rustico, è diverso. Se uno è un nato, può essere solo da una parte e dall'altra parte no. Certo, quello sì. che se lo tigli, non lo è il nodo renale, tu lo puoi tigliere con qualsiasi tipo di vernice, a meno che non lo fai con lo sappello, bianco, grigio, nero, rosso, come ti pare ti piace, allora copre il nodo. Ma se fai con vernici trasparenti, stai tranquillo che il nodo c'è e c'è il male e lo vedrai sempre, sempre, sempre. Perché? Perché è fatto con vernici trasparenti e poi lo lacchi e il resto del discorso, allora non lo vedi mai, è specchietto. Dipende anche dalle persone che ce l'hanno i muberi, come se li trattano. Ci sono persone che li trattano malissimo, che anche se sono muberi buoni li distruggono in poco tempo, però i muberi, siccome non è un abito, non è un pantalone questo o una camicia che uno va e lo usa un po' di tempo, poi lo butta via il pantalone se ne compra un nuovo. E certo, se una casa la mette, uno ce la deve tenere per anni e anni e anni. C'è gente che ce l'ha 50 anni, 60 anni da quando sono sposate, che muoveli di cameraletto, per cui deve essere così. Se un mobile deve essere costruito praticamente per sempre, naturalmente che sia fatto come si deve, se pure fatto un pochino alla buona o se uno ha voluto risparmiare quei soldi, allora non puoi pretendere che ti duri tutta la vita, però un mobile è così, vale per le porte, è così, vale per le finestre, la stessa cosa. Non sono cose che si devono cambiare ogni due o tre anni, no? Quelle sono cose che si devono durare una vita intera. Bene. È così, lo sappiamo, le cose costose gente, capita, due già tutto quanto io non lo so da fare, vai, ti hanno la bricco, mi ha comprato mio, 120 euro, guarda, me lo compro, e ce l'ho, vai, vai la bricco, se vuoi lui ha detto di vedere la pappa che fa che è bucato, per dire, oh, ma tutte le cose sono così, non c'è niente da fare, lo sappiamo benissimo, così vale tutte le categorie, tutto quello che si compra anche, oh. È normale, è normalissimo, capita. Se io vado al mercato e compro pollo, pago il prezzo, la carne per quello che è il pollo, ma se voglio filetto, pago la carne per quello che è il filetto, non ti serve che glielo voglio. Vabbè, ci sono anche quelle persone che fanno questi lavori, certo. Innanzitutto bisogna saperlo fare, primo. Secondo, ecco la faticaccia, non si crede che sia una cosa così tanto facile da fare. Poi chiaramente dipende da tantissime cose, se uno per dire lo so, all'acqua del pozzo, per dire lo stesso scaldabagno, a te ti è durato che sono io 5 anni, a me me ne dura 10, quello è dovuto anche a queste cose, perché tu magari hai sempre avuto l'acqua del pozzo e io ho avuto l'acqua della rete, e sono tante cose, perché quello contiene più calcare e così via, ci sono tante cose che devono essere considerate, no? Come il discorso, ad esempio, se quell'autista che ha la macchina e le gomme ti fanno magari 60.000 km, se quell'autista con la stessa macchina, con lo stesso tipo di gomme, eccetera, che ti fanno 20.000 km, perché? Perché quello che ha fatto 60.000 km ha guidato con la testa attaccata al collo, ha guidato. Quello che invece ha fatto 20.000 km, quello ha corso e ha fatto lo scemo, ha fatto le curve come non si devono fare, e tutte queste belle cose qua. Sono tutte cose quelle che mi dipendono anche dall'individuo, no? Tante volte, a parità di valore e di tipo di materiale, ci può essere quello che li distrugge prima e quello che li distrugge dopo. Io ad esempio, la macchina mia ha 41.000 km. Se tu vedi le gomme, sono nuove. L'unico problema è quelle gialle, che ormai sono cristallizzate, adesso devo cambiare per quel motivo. Però come consumo non ce l'è, mi si sono praticamente consumate, cioè cristallizzate le gomme senza consumarle. Eppure c'è gente con la stessa macchina, 20.000 km devi cambiare le gomme, perché? Perché magari hai fatto le curve come un pazzo, oppure hai fatto le ferrate da pattuglia, tutte queste belle cose qua, fai la partenza e fai fare il sorriso alle gomme, e tutte queste cose sono cose fondamentali, no? E non va bene così. Ripeto le cose, se si trattano bene, c'è gente che brucia la pressione della macchina ogni 2 anni massimo, capita, io ho guidato, sto guidando dal 1966 la macchina, fai conto quanti anni, sono già 54 anni adesso a febbraio, perché io ho preso la patente 54 anni fa di febbraio, Beh, io non ho mai bruciato la pressione della macchina, mai. C'è gente che ogni 2 anni brucia la pressione, perché? Perché tu li vedi al semaforo, ma quando sono in salita specialmente, no? Ah, punta di acceleratore e punta di pressione, e tu vedi questa macchina che sale un po' avanti e poi ritorna indietro, sale avanti e poi ritorna indietro. Ma quando vuoi puoi stare secco e petto al semaforo, premo, metti per la mano e togli anche la macchina possibilmente. Però ti tieni pronto, non ho presentato la ghiaccia che ci sono dietro, in modo che appena cascata devi partire subito, immediatamente. Invece no, la gente purtroppo non siamo tutti uguali. Infatti la macchina nuova che ha comprato mia figlia da poco fa quel sistema di scelta. Quello sì è normale. E per quello ci sono le macchine, gli dà il semaforo, togli la marcia e ti si spegne. Muove per appena lo stesso, oppure accede e si rimette in moto la torre e parte. E così è la macchina di mia figlia. La macchina del Antonello muove per appena lo stesso e riparte. Oppure si è davanti, stai arrivando ad un ostacolo che c'è davanti, non freni tu e cai dalla sola. Tutte queste cose ormai nelle macchine ci sono, le macchine sono diventate automatiche, non a caso ci sono le macchine che guidano, che non c'è bisogno dell'autista per guidarle, per cui vedi bene. Ma ripeto, nonostante tutto, tutto questo progresso, le macchine ci sono quelle che li sanno trattare bene e quelle che non li trattano bene, dunque se non li tratti bene è chiaro che a un certo momento te la ritrovi tutta quanta ammaccata, te la ritrovi tutta quanta messa a male di gomme, te la ritrovi con l'avantreno tutto quanto a conto suo, te la ritrovi con la scatola del cambio che è diventato duro perché magari sei passato gli fuschi e hai spaccato tutto. Tutte queste cose bisogna tenere in considerazione già, se vuoi che la cosa ti dura devi anche saper trattare. Non si usa più. E c'è buco? No, c'è un tic di gonfiaggio, non si preoccupi che va benissimo. Non è giovane, perché se si tratta di un chiodo, una cosa, problemi non ce ne sono, perché tu hai tutto il tempo di gonfiare la ruota e da arrivare dal gommista, per dire. Prima perché ti dovevi fermare, cambiare la ruota e sei a posto. Oggi no, oggi è tutto diverso già. è così. Tu pensa, io quando è? C'erano 4 anni che ho avuto il famato molto caro, una cosa del genere, 4 anni fa più o meno, va. E sono appena fatto, portandola al Sano Vecchio, appena che sono arrivato, subito mi hanno smontato l'alternatore, perché c'era uno che voleva subito l'alternatore. Ma sai cosa costava l'alternatore di quella moto A che avevo io? Costava 650 euro, costava l'alternatore. Perché? Perché l'alternatore è la dinamo, tutto insieme, cioè il motorino avviamento è l'alternatore, non la dinamo. L'alternatore col motorino di avviamento, tutto in un unico corpo, 650 euro. E io ho pagato 120 euro per fermare il motocarro. Appena che ho portato lì, mi hanno montato l'alternatore, se l'hanno venduto loro. Non so quanto, ma se l'hanno venduto. Perché a comprare nuovo costava 650 euro l'alternatore del motocarro che avevo io. Così, prima mi ricordo andavi lì con il vetro del faro rotto, andavi a comprare il faro, cioè il vetro, e te lo cambiavi, anche nei negozi potevi andare a comprare il vetro. Oggi invece il faro è rotto, il vetro è rotto, tutto il faro nuovo. Caspita, secondo i fari, secondo che macchina è, costa 400 euro un faro, 500 euro, sono uno scherzo. Sì che si può immaginare com'è la situazione. Prima invece si cambiava il vetro, invece oggi questi fari di oggi sono tutti quanti fatti di plastica, si vede qui, no? Dopo un po' di tempo vogliono anche rimettere a nuovo, perché si mettono opachi dal sole, eccetera. O perlomeno devi cambiare addirittura il faro. Ma il faro costa un sacco di soldi. Non è così, io già. Uno specchietto, uno specchietto, secondo lo specchio che è, la macchina mia costa 550 euro, uno specchietto, perché? Perché è orientabile dall'interno, elettricamente, tutte queste belle cose qua. Capita, tu vai, prima cos'era? Lo specchietto era uno specchietto normale, ti si rompevano il vetro, andavi, compravi lo specchietto con poche linee te ne uscivi. E invece oggi, lo specchietto si sia rotto, mettilo nuovo, tutto quanto. Non vestino, no, tutto quanto lo specchietto. E siccome oggi è tutto elettrico, lo specchietto lo fanno pagare un sacco di soldi. E lo devi mettere perché ci vuole già. E beh certo, infatti è tutto così, è vero. Devi mettere le teste nelle macchine di oggi, stendi la macchina, chiudi la macchina, come chiudi, con il telecomando stesso si chiudono anche gli specchietti automaticamente, si tirano su i vetri, si tirano su, tutte queste belle cose, no? Prima invece era tutto più semplice, perché era tutto manuale, cioè più semplice oggi, perché non fai altro che schiacciare il telecomando e ha tutte le funzioni per conto suo. Prima invece arrivavi, ti aprivi lo specchietto, ti aprivi la macchina, sempre manualmente con la chiave, ti abbassavi il vetro a modo tuo, invece oggi tutto elettrico, E purtroppo così, le macchine costano anche per quelle, però sono anche più costose da mantenere quando è così, perché non si può, perché oggi se si rompe una centralina ci vogliono 3-4 mila euro, la centralina di una macchina, secondo me macchina è, non è uno scherzo, e sì che vedi bene, dice 4 mila euro, che senza ne mettiamo una macchina, mettiamo una macchina nuova, tanta gente ha fatto così, preferisco commettere una rata e pagarmi la macchina nuova che cambiarmi la centralina per dire di una macchina che magari siano 6, 7, 8 anni, tanta gente ha fatto così. Perché era l'Opel che avevi tu, la Vectra, la cos'era? Io avevo la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la Vectra, la certo, no, c'era la macchina, io mi ricordo, sono andato con Andrea Secchi, quello che vendeva le macchine una volta in via Roma, eccetera, al padre, e che li vende ancora oggi Andrea Secchi, alla concessionaria dell'Arancia, là, vende macchine Arancia, vende. E io sono andato una volta con lui a Palau, dice, era il continente, gli avevano aperto la macchina e gli hanno rubato tutto l'accordo, la plancia che c'è davanti, no, ci hanno rubato. E questa plancia è il continente, Milano, la macchina era parcheggiata, se l'hanno aperta gli hanno rubato, ma sai cosa ci voleva per quella macchina che aveva lui, un macchinone, 7.000 euro, solo per comprare tutta quella plancia lì, perché c'era tutto inserito in questa plancia. Per dirti no, oggi è un problema, già, non è così, no. Oggi mantenere la macchina uno si può anche spennare proprio perché si sa. Ecco, è quello importante, sapere, dice guarda, non compro questa macchina, ma devo essere consapevole che la posso anche mantenere, perché se poi tu hai una macchina del genere e vai non riesci a mantenerla, perché qualsiasi cosa che ti succede è un po' costosa, è da parte comprare una macchina che costa un mucchio di soldi, per cosa? Per preferenza uno si compra una macchinetta che sai che la può mantenere tranquillamente con le sue possibilità che ha. Lo so, purtroppo è così. La tua paga così, la mia paga 113 euro, messo un poco. Per dirti, no, ma tu vuoi mettere tu la tipo che hai tu, con la scelta, c'è tre che ho io. Mentre invece l'altra nuova che c'è mia figlia, quella lì è la ICO, la come si chiama? La Sport, ma come si chiama? Non mi ricordo più nemmeno. Una Ford, la Sport, quella un SUV, quella costa un sacco di soldi, anche lì il bollo. Ma devi considerare i cavalli e il batte che ha quella macchina. Però hai una macchina, questo indubbiamente. Ma però se l'hai comparata, la devi essere in grado di mantenerla, se no è inutile. È inutile che io, per dire, una persona si compra una macchina che poi non è in grado di mantenerla. Quando c'era una volta il fornitore in costruttività, io mi ricordo, il giovanotto non andavo lì perché allora avevo tutta la greppa di tutti i corridori che correvano quando correvo io, eccetera, e ci trovavamo sempre lì in costruttività, di fronte alla chiesa, lì c'era un fornitore tanti anni fa. E arrivava gente, capito, tu vedevi certe persone con macchinone, con un buco grande dietro, nel pannello dietro, guarda, sto mettendo lo stereo, e arrivava lì al fornitore, mettimi 120 euro di benzina. Chi ti vuole una bomba ti voglia, non è solo di buona benzina, stai prestando di metterti un impianto serio che magari ti costa un sacco di soldi dietro, per dirti come sono le persone. Che magari possedevo la 500 e avevo un impianto stereo dentro che costava più di quanto costava tutta la macchina. Perché? Perché c'era la mania di andare a fare le gare e chi era più forte lo stereo. Capita, magari uno stereo da 2-3 mila watt nella macchina che quando la accendevi ti vibrava anche la strada, ti faceva vibrare, non solo vibrare la macchina, ti faceva vibrare anche la strada. Uno di questi, ad esempio, io mi ricordo lo stereo che aveva San Vedio era micidiale, avevo uno stereo nella macchina San Vedio che era micidiale, poi lui mi sembra che forse la macchina che aveva lui, un 127, è anche vecchio tra l'altro, se ricordo bene, e lui aveva un impianto stereo che mi sembra che avevo pagato 7-8 mila euro, non solo per l'impianto stereo, per dirti no, come stanno le cose. Purtroppo ci sono le persone che hanno anche questa mentalità, tu mi dirai, ma sono le ragazze che lo fanno, vabbè sono le ragazze, ma sono sempre persone, no? funzione con lo stereo lì. Tu ti mettevi vicino alla macchina, sentivi la pressione dell'aria, dello stereo, che ti arrivava proprio in faccia, ti arrivava, era una cosa spaventosa. Era una roba di 3.000 watt che avevo, una cosa spaventosa. Certi amplificatori, ma non uno, più di uno messo in serie all'altro per essere sempre più forte. E poi andava e facevano le gare. Purtroppo il sistema, questo sistema di competizione prima, e penso che ancora qualcuno ce l'avrà che fanno con queste gare stupide, perché sono gare stupide per conto mio. Allora la gente certe cose le fa e basta. Música. musica della discoteca che devi ascoltare solo in discoteca e basta, non puoi ascoltarli né in macchina né tantomeno a casa, perché se li ascolti a casa ti subivi, se li ascolti in macchina non la puoi portare, perché non è possibile che lo consenta il codice della strada un volume così alto, per cui solo se vuoi ascoltare la musica così alto se ne vai in discoteca, se ne vai che l'ascolti lì la musica, diversamente non la puoi, oppure ti costruisci la casa di campagna e suoni per conto tuo, ma nemmeno in città la puoi suonare, perché una volta che supera i 90 decibel mi sembra sei già con un rumore molesto, sono già una musica molesta, e dunque se ti fanno una spia arriva la polizia che fanno passare per posta, ma magari... c'è un codice della strada che tu il volume così alto alla macchina non lo puoi tenere assolutamente, ma vuoi scherzare? Capita, oggi addirittura non puoi tenere, prima ti ricordi, prima ti vedevano col telefonino, nessuno ti diceva niente, oggi addirittura se ti vedono col telefonino, anche se sei fermo al semaforo aspettando che scatti il semaforo, oggi sei passibile di contravvenzione. Oggi ci sono delle leggi, tutte in particolare, ed è giusto che ci siano, perché è così, perché non si può essere così, perché la musica intontisce, la musica a volume così alto intontisce e uno perde la concentrazione nella guida, a parte il fatto che non stai ascoltando musica, ma stai ascoltando solo esclusivamente chiasso, perché quando la musica supera la soglia dell'udito o normale è già chiasso, non è, è solo casino e basta, non è musica, intanto per cominciare. Perché dice, ma non ti hanno brumeato, ma se ti hanno brumeato anche il corso, ma questo non significa che stai ascoltando musica, stai ascoltando una serie di strumenti che stanno facendo chiasso e basta, la musica si deve godere ad un livello normale, tranquillo, senza esagerare troppo, perché fa male, sia per l'udito e allo stesso tempo non puoi sentire nemmeno tutti gli effetti della musica, quando tu metti il volume ad altissimo volume, non li senti tutti, ormai li senti al medio volume, con un tantino anche più forte del medio volume, allora senti tutti gli effetti, ma se incominci a fare fracasso, allora non hai capito niente della musica. Che la gente non sa, quello che fa, perché io lo posso dire, perché io me ne intendo veramente di musica. Questo qui intanto era un professore di musica, dice il suono è soggetto a salire, dunque il suono va immesso in basso e io lo sento bene all'altezza dell'orecchio e poi è orientato. Se tu se lei nota, mi ha detto, guardi l'orientamento dei vari altoparlanti in questo salone, no? Erano tutti concentrati al centro, praticamente questi suoni si incrociano, si suono, quindi lei lo deve sentire bene al centro qua, perché i suoni arrivano e percorrono un tratto di strada, hanno un percorso, no? E devono incrociarsi. Ecco, lei per sentire bene tutti i suoni si deve mettere qua, al centro, mentre invece se si mette da un lato sente solamente un altoparlante magari più acuto oppure uno più con i bassi eccetera, capito? E dunque gli altoparlanti devono essere bassi, perché? Perché il suono tende a salire, non tende ad abbassarsi, per cui se io li metto in alto non posso percepire bene i suoni perché sono già alti, capito? Questo è quello che mi ha detto quest'uomo, un insegnante di musica ho già. Ma aveva fatto il paragone, dice, con il caldo, dice, la musica, dice, è come il caldo o il freddo, per dire, il caldo tende a salire, e così tende a salire la musica, il freddo tende a scendere, e così non va bene, dice, la musica si deve fare sentire dal basso, tanto è vero, in certi posti ci sono, gli altoparlanti in basso ci sono, proprio per poter, magari sono orientati appena appena un pochino girati in alto, però questo per concentrarli tutti in un unico posto. Quando noi andiamo a ascoltare un concerto, per dire, no, quando mettono gli altoparlanti, sai, quelle casse grandi, amplificate, eccetera, solo sul palco, che rispetto alla gente in pratica sono già in basso tutto sommato, se vogliamo, per fare, se noi dovessero mettere girati in alto, allora il suono se ne va in cielo e la gente sentirebbe male. E se tu vuoi sentire veramente tutti i suoni devi stare al centro di dove sono concentrati gli amplificatori, cioè delle casse, perché se ti metti da un lato senti solo un tipo di musica acuta oppure troppo compatti o troppo medi, capito già? E queste cose lo sappiamo benissimo che funzionano così. Ok. Sì, già. Le otto sono, sì, è vero. Dico una cosa piuttosto, la radio è sempre chiara o completa. Ok, va bene, vuoi dire. A uno, il metti lì a uno. Sì, c'è il processore, c'è dito, però se metti lì è solo a uno. Meno male che non si è più svuotato, perché tante volte quando lo spolvero col pennello magari si gira poco a poco e allora incomincia ad avere un pochino di cosa, di troppa compressione. Invece così va benissimo. E la uso a tutta distanza di un braccio, lavoro il microfono, per cui va bene così, meglio così, dai. Non è entrato nessuno, in tutta la sera non è entrato nessuno, tre macchie. No, assolutamente, anzi ne ho tolto tutto dal mobiletto, tutto ne ho tolto, addirittura adesso me l'ho messo sul piano del comodino, così almeno mi sdraio, allungo la mano, allungo e ho il microfono portato alle mani, addirittura. Prima ce l'avevo tutto quanto inserito nel tavolino, ce l'avevo e ne avevo quattro dei baracchini, oltre 4,40 avevo anche quattro baracchini, tutti quanti in questo tavolino, alimentatore, doppio, sempre, tutto attaccato, poi negli angoli ci avevo messo quelle luci blu dei corsi dei cinesi, mi ha tolto tutto, adesso il tavolino è vuoto, l'unica cosa che c'è sul tavolino è il televisore, che guardo la notte quando sono a letto, e basta, niente di più. Anzi, arriverà il giorno che elimino anche quello, per dire, così almeno la notte, tanti la notte mi colco sempre tardi, verso le 11:30, ma quelle anche mezzanotte. e la guardo sempre nel salone, la televisione. Però poi quando mi curico, magari c'è ancora qualcosa da vedere, che si può vedere, e allora mettendo la televisione dalla parte mia, metto le cuffie e ascolto, no? E magari sono anche fino alle 2 del mattino, tante volte, qualche volta anche fino alle 3, ascoltando la televisione. Tanto, ad esempio, mattina e notte sono stato fino alle 2 e oltre, guardando quel programma sul canale 56 di macchine, comprano macchine vecchie, tutte quante le vanno ristrutturate, tutte vanno modificate e poi le vendono loro di nuovo, no? Un bel lavoro dei meccanici straordinari, veramente. Prendono certe prese vecchie e poi se le fanno diventare nuove come quando sono uscite dal salone, magari con modifiche perché hanno cambiato il motore, perché l'hanno passato gli ammortizzatori per essere più stabile, insomma tutte queste belle cose qua, no? Tutte le cose che si possono fare, modifiche che si possono fare in una macchina, con le macchine inglesi, americane, eccetera, francese anche. €300.000 che loro comprano, le mettono a posto e poi le rivendono, magari ai privati, oppure le preparano per fare le competizioni di gare, per competizioni sportive, insomma, è una bella trasmissione che io da un po' di tempo la sto guardando spesso, tanto la notte, alle volte ci sono programmi che non dicono niente, allora cambio canale 56 e guardo quello lì, fino a quando non mi viene sonno. Dopo, quando mi sono lo spengo e città e non se ne parla più e mi addormento. Guardo canale 52 tante volte, ci sono delle cose anche lì belle da vedere, tipo la pesca, certi pesci, oppure quelli tipo cercatori di oro, tutte queste cose qua, insomma. Quando non ci sono programmi che mi interessano, perché a me la televisione mi interessa, io guardo programmi dove c'è politica, oppure guardo dove film western, oppure qualche giallo, queste cose così, questi attori tipo Charles Bronson, oppure che so io, quell'altro americano che pure ha fatto anche Sylvester Stallone, questa gente così, fratello, o Maria De Filippi, Pallino, non me ne frega niente a me di questi programmi del campo, per me sono un programma che fanno schifo qui, dunque guardo programmi seri, non porcherie del genere, già. C'è ad esempio il circo di Monte Carlo, quello ad esempio di Pai Natale, c'è il circo di Monte Carlo, ci sono certi artisti, sono straordinari veramente, quindi quelle sono cose da vedere. Ma poi cosa me la puta a me se c'è posta per te, tanto per dire la me la puta a me, oppure un Barbaradusso, cosa me la puta a me di Barbaradusso per dire, poi veramente la guardi perché a volte la televisione stessa a casa la stanno guardando loro, ci sono anch'io e sono praticamente costretto a vederlo, anche se non sono interessato a vederlo. però mi vedo lo stesso perché ci segui, ma per dire, ma di solito la notte sono sempre per conto mio col televisore, no? Perché si sa, le donne si guardano sempre quei programmi lì, io no, non ne guardo io quei programmi, allora mi guardo la televisione a conto mio, se guardo, per cui, o mi guardo lo sport, mi guardo tipo calcio troppo 24, oppure canale 60, Sport Italia, tutte queste cose qua. Poi le altre cose non mi sono tenuta. Se sei Celentano, vabbè, cosa mi interessa Celentano sentire le cretinate che dice lui? Non mi interessa proprio per niente, perché tanto lo so che è un asino, parlando e fa anche schifo, e mi dà anche fastidio. Allora preferenza mi c'è un film, se c'è meglio, e se no c'è qualche canale che si tutto lì. Però quale male che vada, o la radio sopra come io, ma sono qui che mi ascolto magari in 80 metri, la notte di solito trasmettono molto in 80 metri, per dire, no? E anche quello l'ho fatto tante volte. Thank you. Ecco già, te ne ho mandato due, te ne ho mandato. Stai guardando? Quella che hai letto, quella lì è la tenda normale, quell'altro picco più lungo e va oltre i 24 gradi. Hai visto la differenza che c'è nel grafico che ti ho mandato? La differenza è notevolissima. Però questo significa che magari in lontananza sicuramente va più lontano quello, perché va perfettamente orizzontale la portante di questa, di quel tipo di antenna, mentre magari con la manta potreste sentire magari meglio o in vicinanza. Però in lontananza sicuramente quella sviluppa di più. Questo è perlomeno quello che dice il testo, poi c'è tante prove che possiamo anche fare, non è un problema. Tu te la puoi preparare anche dentro casa, guarda. La tenda la piazza dentro casa, con i tubolari tutti quanti inseriti uno dentro l'altro. Poi te la porti su, allunghi i tubolari, allunghi tranquillamente e la metti sul palo. Basta, non ho niente di... ci vuole pochissimo, guarda, poco. Un lavoro leggerissimo e facilissimo da fare. Pesa 3 kg appena, già, 2,5, 3 kg, non di più. Non è come la manta, ma che pesa un sacco, pesa. E poi il banda anche, mentre invece quella cosa è il banda, è una canna da pesca, è pratica. Noi la chiamiamo canna da pesca, ma in realtà non è una canna da pesca, è un tubo serio. Ok. Te l'avevo detto io, e tu non eri molto convinto, dopo che te l'hai detto Gianfranco, allora ti sei convinto un po' di più. E poi alla fin fine hai scelto appunto quell'antenna lì. E ripeto, secondo me hai fatto un buon acquisto, poi te ne renderai conto, soprattutto nel tempo, quello che conta, nel tempo. Perché non ci sono i radiali che si marciscono e se ne cadono già. Questo è un po' di discussione, guarda. Sì, ma è anche le altre antenne, ci sono delle bellissime antenne. Però questa, intanto, esteticamente, dalla strada non vedi praticamente niente di scuccio, perché vedere un'antenna del baracchino sul tetto per me è anche uno scuccio, esteticamente. Vedi solamente questo stilo così lungo e basta, ma niente di particolare già. Mentre invece quando incomincio a vedere tutto questo armamentario che c'è sopra in testa, il tetto, là, con tutti questi radiali, con tutti questi tiranti, mamma mia, non per te, io perché non ho mai fatto l'esame del radioamatore? Perché non ho mai potuto vedere i tetti, il tetto perlomeno, soprattutto il tetto di casa mia, tutto pieno di antenne. E se ne avrei fatto l'esame del radioamatore, per ovvie ragioni avrei avuto il tetto pieno di antenne dell'animatore. no, perché mi ma mi ha dato fastidio spendere i soldi, quello no, non me ne fregava niente, ho la possibilità e lo posso anche fare, per dire. Però vedere tutte queste antenne sul mio tetto mi avrebbe dato fastidio immenso, non poco, un fastidio immenso. E tanta gente critica anche questa situazione qua. E invece quella è un antennino lungo, sì, quando che vuoi, lungo 6,90 metri circa, però è un bastone praticamente che lo vedi muovere, basta, niente di più già. Fare veramente i radioamatori e andare lontano, siete polo, avete installato una bella testa. Natalino avrebbe potuto farlo in campagna, metterlo alla testa che voleva, ma in un centro abitato tu non puoi mettere il polo alto 15 metri da dove trova lo stacco del suolo, perché sappi tu che il dipolo funziona veramente bene, con tanta resa, quando è staccato almeno 15 metri dal suolo, se no ha sempre un'attenuazione non indifferente, questo bisogna tenere presente. Per cui se uno abita in campagna, magari lo mette, che so io, 15-20 metri da terra e va anche bene, ma se sei sul tetto come fai a metterlo così in alto? Si può limitare a qualche metro, a 3-4 metri, dico, sto usando dei pali e basta, ma non è che puoi mettere pali anche 15 metri, no, ma allora dovresti utilizzare dei tralicci per fare queste cose. Vedi, c'è una cosa già diversa, perché lui abita in una casa dove è molto alto il palazzo, per cui davanti non si ritrova niente, al di fuori delle altre palazze che lo circondano lì, che è stesso. Però lui dall'alto vede tutto l'orizzonte, da qualsiasi parte che lui si gira vede sempre l'orizzonte, mentre invece uno che abita in un centro abitato, come abito io, come abitano tanti altri, non lo vede da tutte le parti, trovi sempre l'ostacolo, e allora per evitare l'ostacolo devi superare quelle altezze lì. Ma e come si fa? In un centro abitato non puoi usare certe altezze già. Il dipolo sì, d'accordo, tutto quello che vuoi, e anche per il dipolo poi devi avere un'estensione di territorio non è differente. Se tu vuoi mettere un dipolo per gli 80 metri, devi avere, cioè per i 160 metri, devi avere 80 metri di spazio o gli altri, se no come ti vai a prendere un dipolo? Non è che lo puoi arrotolare questo dipolo, sì, lo puoi anche arrotolare, puoi fare più curve, tutto quello che vuoi, ma è quanto te ne mangia? Quanto te ne mangia il segnale? Quanta attenuazione ti ritrovi? Dunque non sei mai ai massimi livelli. Ok, ciao, ci sentiamo domani, se coincide, dai. Ok, ciao. Chi è avanti? Chi è con questo bidibizzi? Vabbè, non rispondi.